Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con l'autrice e attrice Tamara Bartolini che sarà in scena insieme a Michele Baronio al Teatro Biblioteca Quarticciolo a Roma il 4 e 5 ottobre con Carmen che non vede l'ora. Tamara, ben trovata. Parliamo Ciao, ciao, ben trovati. nuovamente di questo spettacolo, presentacelo. Allora, intanto Carmen è una delle nostre prime produzioni, quindi torniamo a Roma con un lavoro che insomma è già stato più volte a Roma, ma che continua appunto a tornare, anche a girare, perché l'abbiamo portato proprio quest'estate in Puglia in una versione all'aperto. Carmen, che non vede l'ora, è nato nel 2013 dopo un lungo incontro con Lucilla Galeazzi, con cui avevamo fatto un recital insieme al Teatro Palladium, e poi alla fine questa storia che ci è stata donata da un'allieva di uno dei nostri laboratori, una donna forte di 60 anni, che ci ha raccontato tutta la sua vita, e a un certo punto noi abbiamo detto: aspetta, questa vita va tradotta e raccontata, perché parla di noi, del nostro paese, parla di tante cose che possiamo tradurre in scena. E così è nato Carmen che non vede l'ora, proprio da questo incontro con una biografia. È chiaro che le biografie poi si traducono, si tradiscono, ma anche per ritrovarsi, no? E quindi è stato davvero un viaggio forte questo con Carmen. E c'è un po' la storia del nostro paese, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Al centro c'è una donna e la sua ricerca di libertà, ma c'è un viaggio dei corpi che appunto cercano un posto nel mondo, si scontrano, lottano. Tamara, ecco, in questo senso volevo chiederti che tipo di storia ha attraversato questa donna? Allora, è chiaro che la storia che ha attraversato ha al centro sicuramente una violenza, uno stupro. E questo stupro arriva a un certo punto della sua storia e in qualche modo fa da motore e da invertitore di cammino. Partiamo in realtà da un villaggio dell'ex Jugoslavia, da dove parte in realtà la sua bisnonna, poi c'è la fine della Seconda Guerra Mondiale tra Africa, in Asmara e l'Italia, poi c'è una Napoli che dagli anni 40 arriva agli anni 60 e i tabù invece di un profondo sud, un piccolo paesino sperduto della Basilicata, e da qui questa donna poi scappa per raggiungere Roma e gli anni 70, no? Gli anni 70, una Roma infuocata dalle contestazioni, incontrando da una parte della sua famiglia slava e dall'altra il mondo del femminismo, del lavoro, della scuola e della sperimentazione, e dall'altra però il continuare a combattere con questo marito violento. Tutta la storia grande che si mescola alla sua storia, no? La storia piccola di una donna qualunque, insomma, no? E il desiderio poi forte di quella stanza tutta per sé, di quel lavoro da maestra appunto in una scuola pubblica che andava pensata, ripensata come spazio da proteggere, no? Come il luogo, come dire, un po' deputato alla trasformazione della società, e fino ad arrivare oggi a un piccolo paesino della provincia di Roma davanti al mare, per continuare in realtà a portare avanti tutta la sua storia, tutto il suo viaggio, E e come. continuare a lavorare magari nella cultura, nelle biblioteche. Sì. Tamara, come avete pensato di tradurla in fatto scenico? Guarda, in realtà è iniziato intanto un lavoro di raccolta di materiali rispetto proprio alla storia grande che attraversa Carmen. Dall'altra, la sensazione che avevamo io e Michele è che questo viaggio era davvero un viaggio umano e artistico che andava avanti e indietro nel tempo, e quindi il tentativo di ricostruire questa vita, poi a un certo punto è un po' saltato e ci siamo fatti prendere dalla corrente e dall'urgenza di questo racconto che era anche molto musicale, perché infatti lo spettacolo è anche un po' un concerto, cioè attraversiamo anche musicalmente questo viaggio, sia di luoghi sia di momenti storici. E la sensazione era anche che questa storia, appunto, potevamo quasi solo balbettarla, o appunto cercare di portare al pubblico questa corrente elettrica che ci spingeva, no? E quindi l'idea è stata davvero prestare i nostri corpi a tutto il viaggio che Carmen ci ha regalato, un po' come proprio raccontare, no? Che a volte è una promessa, è qualcosa di potente, di provvisorio anche però. E quindi c'è, cioè, questo facciamo che un po' da bambini che ci ha spinto, facciamo che io sono Carmen e facciamo che posso raccontare questa storia anche a partire da me. E quindi tanti materiali fotografici suoi, nostri e del nostro paese, insomma, appunto siamo andati anche un po' in giro a cercare anche reperti archeologici, fino appunto a quasi a mescolare la sua vita con la nostra. E le domande che questa storia ci ha posto le abbiamo portate fuori, tanto che a un certo punto anche Michele proprio in scena dice: vabbè, ma appunto attraversando anche tutti gli uomini che Carmen incontra, si chiede, no? Che cosa voglia dire essere un uomo. E lì raccogliamo anche invece anche scritture di questi ultimi anni, scritture femministe importanti, perché poi alla fine il viaggio ce lo siamo fatto insieme, no? Sia io che lui, e quindi è stato molto forte. C'è una domanda che Carmen fa sul corpo, sulla bellezza e sul fatto appunto sulla ricerca di trovare la propria identità in un mondo che spesso poi ti mette davanti ostacoli, violenze. La sua autodeterminazione, la sua lotta appunto per quello scontro ci ha colpito profondamente, quindi ci sembrava fondamentale raccontarla. Torniamo a Roma perché questo spettacolo lo potremmo fare all'infinito, cioè non è una storia che la potremmo raccontare ancora 80 anni, e quindi siamo molto felici di riprenderlo e di portarlo al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Ecco, per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, allora 4 e 5 ottobre, Teatro Biblioteca Quarticciolo, al Quarticciolo appunto, C'è l'evento Facebook, ho 21, visto. c'è un evento Facebook dove ci sono tutte le indicazioni. Venite a vederlo, noi non vediamo l'ora di incontrarvi e di farvi incontrare Carmen. Bene, Tamara, allora un abbraccio di in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie, a presto, un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao. Con Fabrizio Grifasi, direttore del Roma Europa, dal 19 settembre al 25 novembre in vari luoghi della città. Fabrizio, ben trovato. Salve, ciao. Allora, presentaci questa edizione. Allora, dunque, come al solito 2 mesi, come al solito un festival che ha rete all'interno della città, nei teatri pubblici, negli spazi privati, nei musei, nelle gallerie e anche nelle pubbliche piazze. Quindi è un po' un'idea di festival che attraversa l'intera area metropolitana della città. Un festival che ha un taglio profondamente rivolto al mondo, particolarmente in questa edizione. Sì. Presenta spettacoli di musica, di teatro, di danza, di arti digitali, le presenta con un cuore fortemente radicato in Europa e in Italia, ovviamente, ma che quest'anno particolarmente a partire dall'Africa in qualche modo guarda oltre.

Presentaci il festival. Intanto partiamo dal nome, In Divenire. L'ho chiamato Festival In Divenire perché in gara ci sono degli spettacoli in work in progress e il premio consiste nella possibilità di far diventare questi studi gli spettacoli completi. E noi premiamo i vincitori della sezione danza e della sezione prosa con tutto ciò che serve per realizzare uno spettacolo compiuto, e quindi diamo anche la possibilità di avere un ufficio stampa, uno spazio per le prove, quindi una residenza lunga per montare lo spettacolo, e poi tutto ciò che sta attorno, dalle luci ai tecnici, alla fonica, e ovviamente una produzione. Com'era nato tutto l'anno scorso? L'anno scorso è nato il tutto da un'idea di Alessandro Longobardi e Lidia Clementi. Alessandro è anche il direttore artistico del Brancaccio, della Sala Umberto, e mi ha affidato questa direzione artistica. Non avevamo ancora in mente esattamente cosa fare. Io ho pensato che quando avevo l'età di tutti i teatranti che stanno partecipando a questo festival, avevo sempre qualcosa nel cassetto che non riuscivo a realizzare. E allora il premio nasce proprio per questo. Ci sono tanti progetti che non riescono a trovare uno spazio, e allora il festival dà la possibilità di trovare questo spazio, che è lo spazio Diamante, appunto. Quanti lavori saranno presentati in questa edizione? Sono arrivate 150 proposte, ne abbiamo scelte 30, 23 di prosa e 7 di danza. E quest'anno, l'anno scorso, abbiamo avuto Fabrizio Gifuni che ha consegnato il premio al miglior progetto di prosa, e quest'anno per il miglior progetto di danza abbiamo addirittura Luciana Favignano, la più grande étoile con Carnassacci del nostro mondo della danza, nota a livello internazionale, ha danzato anche con Nurayev, diretta da Roland Petit. Questo avverrà il 10 di ottobre, mentre il 14 ottobre per la serata di prosa annunceremo fra breve chi saranno gli artisti che consegneranno i premi. E quali saranno i giorni e gli orari? Di solito gli orari sono dei due spettacoli, o di danza o di prosa, alle 19 e alle 21. Però su www.spaziodiamante.it si trova tutto, perché per esempio abbiamo 4 presentazioni di libri che avverranno alle 18.30. Il primo è il 27, c'è la presentazione del libro Salvezza, scritto da Nennio Buonaccorso e Marco Rizzo, che si sono intrufolati nella nave Aquarius e hanno fatto un bellissimo reportage viaggiando con i migranti dall'Africa a Lampedusa. Questo reportage è talmente magnifico e anche molto doloroso che Feltrinelli l'ha voluto pubblicare, e lo presentiamo noi il 27 alle 18.30 con ingresso libero allo Spazio Diamante. Okay. E poi ci saranno tante altre presentazioni di libri, ma sul nostro sito trovate tutti gli orari. Okay. Ah, e poi oggi, martedì, alle 19 ci sarà l'inaugurazione della nostra mostra d'arte. Abbiamo 11 tra scultori, pittori e fotografi che vengono da tutto il mondo, e durante le 3 settimane ci sarà questa collettiva allestita, e il tema è l'arte, che benché tutti gli artisti abbiano delle radici, in realtà queste radici poi sono soltanto formali, nel senso che l'arte formalmente ha degli stili diversi, ma attraverso questa collettiva abbiamo voluto raccontare come poi la sostanza di ogni essere umano sia identica in tutto il mondo. Saranno tutti i giorni di queste 3 settimane? Tutti i giorni, tranne lunedì 1 ottobre, che facciamo una pausa. Ok. Bene, i riferimenti ce li hai dati per quanto riguarda il web. Ricordiamo le date del secondo Festival In Divenire a Roma, allo Spazio Diamante, dal 25 settembre al 14 ottobre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Giampiero Ciccio. Giampiero, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, credo in lupo. Marco e vi aspetto allo Spazio Diamante. Con Laura Caruso, una delle curatrici della terza edizione del Festival dello Spettatore ad Arezzo dal 3 al 7 ottobre. Laura, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Raccontiamo cos'è. Sì, il Festival dello Spettatore è un evento, un festival che si svolge ad Arezzo, ormai alla terza edizione, che pone al centro lo spettatore. Poi nel tempo questa definizione di spettatore è sempre più diventata quella del cittadino, un cittadino attivo, un cittadino che attraverso le arti, dalla scena, le arti visive, ma anche il cinema, partecipa attivamente dell'immaginare e del costruire la città, no? In qualche maniera, quindi partecipa, diventa attivo nello spazio sociale in cui vive. Quindi ecco, lo intendiamo così, uno spettatore che è soprattutto un cittadino. Laura, da quale esigenza era nato? Era nato dall'esigenza di porre al centro appunto quello che è il lavoro, insomma, in qualche maniera il ruolo che gli spettatori fanno durante le stagioni, per questo che abbiamo, lo facciamo all'inizio di ottobre, perché è l'inizio delle stagioni teatrali e quindi l'inizio di quello che è il percorso che molti spettatori fanno, ciascuno nei propri teatri, magari nei teatri delle province. E volevamo dare un appuntamento a tutti coloro che intendono il ruolo di spettatore come appunto una partecipazione attiva. Per questo che il Festival dello Spettatore è l'occasione per dare appuntamento a tantissimi spettatori, quest'anno ne verranno 80 da varie città d'Italia, che si incontrano ad Arezzo il 6 ottobre per la reunion degli spettatori d'Italia, e sono tutti spettatori che sono mossi dalla curiosità verso il teatro sicuramente, ma la curiosità anche di conoscere altre persone che in Italia partecipano a gruppi di formazione del pubblico, gruppi di coinvolgimento attivo, cioè quindi altri spettatori che intendono il teatro davvero come un luogo di dialogo, partecipazione sia con gli artisti ma anche con gli operatori, tutti coloro che poi partecipano alle comunità teatrali, no? Sì. Quindi c'è questo incontro nazionale tra spettatori d'Italia, che poi tra l'altro avrà un esito in una flash mob curato da Andrea Paolucci, che si svolgerà nel centro urbano, quindi in qualche maniera questi spettatori si manifestano. Come saranno strutturate le giornate? Allora, iniziamo mercoledì 3 ottobre con il cinema. Verranno proiettate le prime due puntate della serie L'amica geniale, tratta dal romanzo di Elena Ferrante, con la regia di Saverio Costanzo. E abbiamo voluto affrontare il tema di cosa sta cambiando nelle dinamiche di visione con quello che chiamiamo come le serie, no? E infatti ci sarà Renzo Francabandera, che è un critico, che ci accompagnerà un po', ci dà qualche indicazione su come guardiamo le serie. E questo succede mercoledì 3 ottobre, diventa anche l'inaugurazione del festival. Poi il 4 ottobre c'è una cosa per noi importante. Noi ogni anno dentro al festival inseriamo una giornata di studi. Quest'anno il tema è la cultura democratica, cioè sì, i progetti di coinvolgimento del pubblico, le attività di inclusione e di integrazione sociale stanno davvero creando delle comunità culturali eterogenee oppure no. Mm-hmm. E quindi affronteremo questo tema con una serie di persone, di professionisti, artisti teatrali e non solo. Per esempio qui ci saranno i Bianco Valente, che sono un gruppo di artisti visivi, tra l'altro vengono ora da una personale a Palermo durante Manifesta, e con loro, ma anche con altri, con persone che si occupano per esempio di rigenerazione urbana come Ilda Curti, parleremo appunto di come se veramente si stanno creando delle comunità culturali eterogenee oppure no. E questa è la giornata di studi che si svolge il giovedì. Poi anche qui c'è il momento di spettacolo, in questo caso ci trasferiamo a San Sepolcro con il mitico Pullman dello Spettatore. Già dall'anno scorso abbiamo inaugurato questa modalità, per cui ci diamo appuntamento, si va con l'autobus a San Sepolcro e si va a vedere lo spettacolo di Chiara Bersani, Gentle Unicorn, una prova aperta in una delle residenze teatrali della provincia di Arezzo, che è quella di Chilovat e Capotrave. Okay. E quindi così finisce il giovedì. Il venerdì è una giornata dedicata più che altro alla danza, e in questo caso, visto che noi mettiamo al centro lo spettatore, ci sono due spettacoli, uno dei quali è stato scelto da un gruppo di visionari di Sosta Palmizzi, che è una delle compagnie che partecipa e collabora al festival, che è Passenger, Il coraggio di stare, di Tommaso Serratore, e poi a seguire Quintetto, prodotto da Aldes, con Marco Chenevier. Ma prima di questo ci sarà un incontro che vuole essere, diciamo, un modo per avvicinare alla visione della danza contemporanea in particolare, e sarà aperto da due interventi, uno di Rossella Battisti e uno di Alessandro Contremoli, diciamo due di quelli che in Italia in questo momento studiano maggiormente la danza contemporanea, che daranno degli strumenti agli spettatori per approcciarsi a un linguaggio che certe volte ancora, come dire, subisce un po' un pregiudizio da parte degli spettatori, e quindi invece vogliamo dare strumenti per apprezzare, no, questo che crediamo invece essere un linguaggio assolutamente vivace e fertile in questo momento. Sì, sì. E quindi arriviamo venerdì. Poi il sabato, ecco, il sabato ci sono vari momenti. Allora, la mattina faremo un po' un esperimento. Noi lavoriamo da 3 anni con il liceo Vittoria Colonna, che è un liceo che ha un indirizzo teatrale ad Arezzo. I ragazzi saranno sottoposti a due studi di due compagnie, due formazioni artistiche giovani. Una è la compagnia Fondamenta Zero con lo spettacolo Alle Porte, e l'altra è Claudia Caldarano con lo spettacolo Sul Vedere. E loro, i ragazzi in sala, vedendo i lavori, decideranno insieme a noi, riflettendo, su quale spettacolo invitare in forma completa al festival dell'anno prossimo. Quindi dall'esperienza del vedere, diciamo, uno studio, al desiderio di invitare quell'artista con lo spettacolo completo, in modo tale da mostrarlo a tutto il pubblico, e quindi assumendosi anche la responsabilità. Poi al pomeriggio l'appuntamento per tutti i gruppi di spettatori d'Italia, di cui dicevamo, sono praticamente quasi 20 gruppi che vengono da tutta Italia, e quasi 80 spettatori, e quindi un momento di grande festa, insomma una cosa abbastanza straordinaria, insomma l'unica in Italia, perché in questo, cioè, veramente sono spettatori che vengono dal Salento, vengono da Modena, da Assisi, da Brescia e da tanti altri posti, oltre naturalmente i nostri spettatori erranti di Arezzo, ma anche delle vallate. Ecco, in questo senso volevo chiederti come si è creata questa rete. Guarda, si è creata semplicemente perché un po' noi operatrici di Arezzo abbiamo cominciato a intanto lavorare al progetto Spettatori Erranti, e poi a confrontarci con altri professionisti, altri operatori che fanno questo lavoro di mediazione, no, del pubblico in Italia, e a capire soprattutto che agli spettatori c'è un grandissimo desiderio di partecipazione, anche di conoscenza di altre persone che hanno questo stesso spirito di voler approfondire, voler vivere il teatro come un'esperienza a tutto campo. Per cui, per esempio, gli spettatori che verranno vedranno la sera lo spettacolo Macbeth, che è, diciamo, lo spettacolo centrale anche del festival, lo vedranno al Teatro Petrarca, insomma il teatro più importante della città di Arezzo. Intorno alla visione di questo spettacolo però ci sarà tutta l'esperienza del riflettere insieme ad altri spettatori su quelle che sono le attese, su quelle che sono certe volte anche le piccole delusioni, no, degli spettatori, ma anche cos'è che muove e alimenta la curiosità del continuare ad andare a vedere. E in particolare a noi piace poter stimolare quel desiderio di vedere il non conosciuto, di un po' superare la comfort zone, quindi spingiamo sempre lo spettatore ad andare magari in dei piccoli teatri oppure in degli spazi non convenzionali, di andare a vedere le giovani compagnie, la nuova drammaturgia, cioè vuol dire passare dal intrattenimento ha invece l'esperienza del teatro come un'esperienza di scoperta reale. Devo dire che nelle edizioni precedenti di questa reunion si sono poi creati anche dei rapporti personali tra gli spettatori, con poi che si sono andati anche a trovare durante l'anno. Delle nostre spettatrici l'anno scorso sono andati a Trento a ritrovare i 33 trentini che hanno conosciuto durante la reunion dell'anno scorso, o altrettanto poi altre occasioni che si sono create, amicizie, persone che si tengono in contatto attraverso i social, insomma, come dire, diventano veramente poi contatti veri, sì. Ed esperienze che danno adito poi ad altri, alla conoscenza, e un po' anche quell'idea del fatto che uno spettatore può andare in un'altra città e ritrovare qualcuno con cui condividere quell'esperienza del teatro. Sì. E quindi, ecco, questo è una delle ambizioni anche un po' del Festival dello Spettatore. Sì.

dalla memoria collettiva. Sì. Però la nostra idea non è quella di fare lo statement, quella di fare la predica, per così dire, sul tema, è più un'idea di creare più dibattito, più discorso, di far vedere venti emotivi, correnti culturali diverse che hanno attraversato o possono attraversare un fenomeno, un oggetto, e attraverso questi portare lo spettatore a chiedersi cosa sia quell'oggetto. Quindi è più un dialogo con gli spettatori che non uno statement da arte delle buone intenzioni, per così dire. Ecco. Sì. In questi due mesi quanti saranno gli eventi? Tantissimi, sono 22 produzioni e se non sbaglio 73 spettacoli, quindi è una cosa immensa, è un tour de force per noi, per le compagnie, per gli artisti, per tutti, anche un po' per gli spettatori, che però insomma lo fanno piacevolmente, questo tour de force. Ci fa piacere accompagnarli insomma in questi itinerari. C'è un calendario fisso di giorni e di luoghi oppure tutto è a incastro e bisogna consultare il programma? È bene sempre consultare il programma, ci sono delle sovrapposizioni, anche se ovviamente cerchiamo di crearne il meno possibile, quindi diciamo che tendenzialmente quando ci sono più eventi nello stesso giorno cerchiamo di fare in modo che lo spettatore li possa vedere tutti. Sì. Ovviamente il programma si può vedere sul sito del festival, che è www.quartieridellarte.it. Benissimo, allora ricordiamo la 22esima edizione del Festival Quartieri dell'Arte in varie località della Tuscia, un ringraziamento e un saluto al direttore Gianmaria Cervo, e Gianmaria un abbraccio e un bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un abbraccio, a prestissimo, grazie. Con Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette per parlare della 22esima edizione di A Teatro nelle Case, la versione autunnale, dall'8 settembre al 14 ottobre alle Ariette in altri luoghi della Val Samoggia in provincia di Bologna. Quest'anno il titolo è Odissee, con residenze creative, spettacoli, incontri, laboratori e proiezioni. Stefano, ben trovato. Buongiorno a tutti, ciao. Raccontaci tutto. Sono tanti anni che portiamo avanti questo nostro progetto, che cerca sempre di coinvolgere nuovi cittadini, nuovi appassionati al nostro percorso teatrale, culturale, che cerca di incontrare gente, persone, esseri umani su questo valore molto importante che per noi è la comunità. Quindi usiamo la nostra casa ed altri luoghi che sono altre case di cittadini del nostro territorio. È un progetto che va avanti da tanto tempo. Quest'anno abbiamo fatto una bellissima esperienza con i territori da cucire, lavorando attorno all'Odissea con tantissimi cittadini. Eravamo un gruppo di circa 80 persone, la cosa è stata molto bella, e quindi il periodo autunnale del Teatro nelle Case è dedicato alla prosecuzione di una riflessione attorno ai temi che abbiamo portato: viaggi, le migrazioni, le peripezie, le difficoltà, le odissee che incontriamo noi ogni giorno, le nostre piccole odissee quotidiane, attraverso lo sguardo non solo nostro ma di altri artisti che vengono, alcuni da molto lontano, fin dalla Francia, altri da vicino come dalla Romagna, ma che sono tutti da sempre molto impegnati su questo versante di un teatro vivo, vivente, che cerca il confronto, il dialogo, che cerca di cambiare, di modificare, di intervenire sulla realtà. Stefano, come sarà organizzato il calendario? Beh, cominciamo con una residenza creativa di una compagnia che si chiama Teatro de Chambre, che viene dal nord della Francia, la compagnia diretta da Christophe Piret, con cui siamo amici da molto tempo, ci conosciamo dal 2004, abbiamo spesso intrecciato i nostri lavori. Stanno facendo un progetto che debutterà al Festival Transfrontaliero di Maubeuge nel nord della Francia il mese di novembre, e noi ci siamo imbarcati per sostenere questo bellissimo progetto che si intitola Barbaresque, che vede impegnati attori di provenienze diverse dall'area l'Algeria magrebina, la Russia, il Portogallo, e attorno a questo nucleo francese Christophe vuole creare, sta creando una opera apolide per quattro danzatori e un rapper, due danzatrici di danza contemporanea, due danzatori di pop e un rapper francese. E quindi li ospitiamo per una settimana, presenteranno l'avanzamento del loro lavoro il sabato 8 e continueremo a sostenerli fino al debutto. Poi ci siamo noi, c'è la nostra riflessione attorno all'esperienza di quest'anno, e c'è il nostro nuovo lavoro attorno a un tavolo, molto importante perché è un'altra tappa del nostro percorso autobiografico del teatro, di produzione teatrale. E un altro appuntamento importante a fine settembre, inizio ottobre, è l'accoglienza, un progetto dedicato a due artisti che amiamo, stimiamo, che sono anche una coppia, Luigi Dadina del Teatro delle Albe e Laura Gambi, che è sua moglie, Luigi Dadina, teatrante, Laura Gambi, scrittrice soprattutto, ma anche operatrice del sociale, a cui dedichiamo un progetto che si intitola Fatti e Parole, l'arte e la vita nel lavoro di questi due artisti, Luigi Dadina e Laura Gambi. E staranno da noi in residenza per un po' più di una settimana, presentando tre libri che li riguardano, uno scritto da Laura, due su Luigi Dadina. Condurrà Luigi Dadina un laboratorio sulla narrazione autobiografica e presenterà il suo nuovo lavoro che si intitola appunto I Fatti. E poi, sempre il nostro lavoro, chiuderemo ospitando un'altra residenza creativa di Alessandro Berti, che sta lavorando su un nuovo progetto che debutterà al Teatro di Casalecchio, Gender Bender. Quindi cerchiamo di fare circolare le idee, le energie e nuovi pensieri per un nuovo teatro. Benissimo. Tutti i riferimenti per il calendario e tutte le altre informazioni sul sito internet e sulla pagina Facebook? Naturalmente, lì trovate tutti i dettagli di questo programma che ho sintetizzato, perché è già un po' di tempo che abbiamo cercato di abbandonare, stiamo abbandonando un po' la forma del festival concentrato in pochi giorni e cerchiamo di fare questo per poterci dedicare appunto anche a questo principio di residenza, di accogliere artisti che stanno sul nostro territorio, incontrano cittadini, le persone. Per fare questo non possiamo concentrare tutto in tre giorni, ma crediamo che questa semina è forse più importante dell'eventismo che a volte portano dietro i festival vetrina. E quindi, per avere i dettagli, andate sul sito, oppure se volete telefonateci a casa 051 670 4373. Benissimo, Stefano, è sempre un piacere, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, a prestissimo, ciao a tutti. Con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica per l'agenda della settimana teatrale romana e non solo. Simone, ben trovato. Ciao a tutti, buongiorno, buon pomeriggio. Allora, che succede? Allora, cosa succede? Questa qui è una settimana un po' da vedere, per, soprattutto per ciò che riguarda l'Europa Festival, che insomma arriva in una sua fase molto calda. Ormai si tratta di un festival avviato che ci sarà, diciamo, per tutto questo autunno e verso l'inverno. Ma iniziamo partendo da questo lavoro, L'uomo nella società odierna, Teatro India, lo spettacolo italo-danese Per Bacco, Turbamenti divini. Si tratta della regista Federica Altieri, che collabora con l'Odin Theatret, e sarà sabato 6 ottobre al Teatro India. Andiamo a vedere un po' di cosa si tratta, appunto questo Turbamenti divini in versione temporale. Si tratta del lavoro pensato e realizzato in Danimarca, in relazione al vino come nettare degli dei, offerto al pubblico in una degustazione allestita da una cantina di Casale Certosa prima della messa in scena. E questo, insomma, è uno spettacolo che, con ironia, giocosità ma anche profondità, sa cercare un legame con appunto il mondo del vino, al momento particolarmente interessante soprattutto in Italia per la grande attenzione che c'è attorno. Proseguo con il Teatro Lo Spazio, dove dal 1 al 6 ottobre c'è questo Rifiuti Umani, una stand-up comedy surreale, satirico-grottesca, con musiche dal vivo, originali, di un chitarrista Francesco Petrucci, e in scena Armando De Ceccon, che porta questo lavoro al Teatro allo Spazio dal 1 al 6 di ottobre. Festival in divenire, che è lo Spazio Diamante, continuo anche questa settimana con un bel po' di lavori. Ti segnalo, vediamo un po', il 2 di ottobre, che è questa sera, Cani Sciolti, questa compagnia presenta Sotto il sole e l'oscurità allo Spazio Diamante, che prende spunto dal libro La svastica sul sole di Philip Dick, in cui Dick ipotizza un futuro distopico in cui la Germania nazista vince la Seconda Guerra Mondiale e instaura il regime totalitario su tutto il pianeta. Molto interessante il lavoro su una sorta di revisionismo un po' ironizzato. Poi domani sarà l'occasione per questo lavoro firmato da Teatro Azione con Gli Arrovesciati di Giorgio Cardinali. Andiamo a vedere anche, insomma, un po' più avanti cosa abbiamo. Ancora questo lavoro La Bambina di Carta, questo magma movimento artistico giovanile con la regia di Flavio Marigliani, che prende spunto dalla vicenda di Nojuda Lee, sposa bambina yemenita, a soli 10 anni ha trovato quel coraggio di chiedere il divorzio di un uomo molto più grande di lei, che era stata costretta a sposare, quindi è una storia molto, molto particolare da non sottovalutare. E forse sì, insomma, lei, ti ricordo ancora qualcosa, vediamo, sì, andiamo verso il weekend, il 6 di ottobre, forse segnalerei questo lavoro di Giulio Guarino, Vaffan Disney, se puoi sognarlo puoi denunciarlo, è appunto un lavoro dedicato alle illusioni, il responsabile delle illusioni, ovvero sia Walt Disney, firmato da appunto Giulio Guarino, con un bel po' di attori in scena. Quindi questo per quanto riguarda la settimana di in divenire, il festival diretto al Campiero Ciccio allo Spazio Diamante. Ti porto appunto al Romeo Europa Festival, perché questa è la settimana di debutto di una compagnia che amiamo molto. Si tratta di Anagor, diretta da Simone De Rai e Marco Menegoni, questa compagnia veneta che si è imposta in questi anni con un lavoro estetico molto forte di teatro immagine, e presenta qui questo lavoro Orestea, Agamennone, Schiavi, Conversio, 2 e 3 ottobre al Teatro Argentina alle ore 20, un lavoro piuttosto lungo perché dura 4 ore con intervallo, e appunto è diviso tra Agamennone e Schiavi più Conversio, quindi sono due parti. È la storia di un mondo in rivolta contro il dolore e la finitezza dell'essere umano, un teatro in grado di farsi pensiero per riscrivere una nuova idea del sacro. Il sacro è effettivamente un grande interesse della compagnia, quindi assolutamente da non perdere questo lavoro, in cui riescono a coniugare performing art e la scena ipermediale con, insomma, un allestimento teatrale con il canto e l'orazione, quindi insomma un lavoro abbastanza completo, totale. All'auditorium invece Sala Petrassi, l'occasione per vedere Tsirihaka Arrivelle di Maglia Pons, 3-4 ottobre, per questo lavoro di circo contemporaneo, in fondo per questo lavoro dedicato al music hall, al varietà, uno spettacolo diviso in numeri sul continuo mutamento del corpo e della nostra immaginazione. Quindi all'auditorium il 3 e 4 ottobre con questo lavoro che si chiama Grande, questo è il titolo dell'opera. Poi torna anche la danza al Roma Europa Festival 4 e 5 ottobre per vedere Marco Donnarumma in collaborazione con Margherita Pevere con questo lavoro che si chiama Engveide, spero di averlo pronunciato discretamente, al Mattatoio, nell'area del Mattatoio. Cosa significa creare una macchina completamente autonoma, indipendente dal controllo umano? Ecco, sto vedendo delle immagini di questo lavoro in foto ed è molto chiaro come uomo e macchina all'interno dello spazio performativo lottano per accedere a una nuova forma di identità ibrida e si influenzano reciprocamente in una connessione appunto di corpo e psiche. Questo è molto interessante e lo andremo a vedere al Mattatoio 4 e 5 ottobre per Romeo Europa Festival. Continuerei con appunto 5-7 ottobre, Karma Fails, Meditation is Visualization, The Cool Couple. 5-7 ottobre, appunto, sempre nello spazio del mattatoio, questo duo artistico italiano, nato a Milano, con opere che hanno sempre differenti formati artistici, e questo lavoro cerca di andare oltre la retorica apocalittica e mainstream della fine del mondo, focalizzando l'attenzione sull'essere umano. Quindi è interessante, appunto, abbastanza originale sotto questo aspetto il lavoro. Continuiamo un po' con concludendo con Romero Profetti, che ci sono tantissime cose. Forse ti segnalo, rimandando anche al programma direttamente appunto sul sito del Romero Profetti, forse mi fa piacere segnalare questo lavoro all'Argentina di teatro musicale, 6 ottobre, Leos Janacek, Ivo Fanove, Annalise Vamparis, The Diary of One Who Disappeared, al Teatro Argentina alle ore 19, questo lavoro in prima nazionale, qui il lavoro del compositore ceco Janacek incontra Camila Stoslova in una località di Gura. La donna ha quasi 40 anni, siamo nel 1917, 40 anni meglio lui, nel 1917, il rapporto rimarrà platonico, ma il compositore rimarrà ossessionato da lei fino alla sua morte. Quindi un lavoro che ha a che vedere con una biografia forte di questo compositore, appunto Janacek, che va appunto ad indagare attraverso canzoni per tenore e pianoforte, ma appunto i brani del coro è una parte teatrale e curata dal regista, un regista che conosciamo molto bene a Roma, Ivo Fanove, che è venuto in Italia varie volte. Quindi questo lavoro lo vedremo il 6 ottobre al Teatro Argentina per Roma Europa Festival, e direi che appunto è una cosa abbastanza interessante da dover segnalare. E dunque, Federico, io direi che siamo quasi in conclusione, cerco di fare quello che stavo facendo prima, ossia segnalare ancora qualcosa per ciò che riguarda il Teatro Biblioteca del Corticciolo. Eccoci qua. Dunque, oltre al lavoro già segnalato, che non vede l'ora, Bartolini Baronio, 4 e 5 ottobre, un lavoro che abbiamo anche già visto e segnalato altre volte, direi che forse è anche buono segnalare questo lavoro della compagnia Susanna Bezzani, più Citroën Physical Dance Theater, 6 e 7 ottobre, appunto, arriva la danza al Teatro Biblioteca Corticciolo con questo Black Trial, in off dello spettacolo Io sono il bianco del nero, ispirato a Westland di Thomas Elliott, il terzo che sempre ti cammina accanto. Questo è il lavoro che vedremo al Teatro Biblioteca Corticciolo, 6 e 7 di ottobre, e questo, Federico, direi che è tutto. Simone, un abbraccio, ci sentiamo online martedì della settimana prossima e ci vediamo a teatro. Assolutamente, dimmi Federico, fammi solo ricordare una cosa, domani mercoledì a Teatro India, per la memoria di Giulio Regeni, ci sarà una serata con molti artisti in memoria di Giulio Regeni, a Roma per Giulio, alle ore 20:30, il collettivo Giulio Siamo Noi appunto dirige questo lavoro, ci saranno, ti dico un po' di nomi, Valerio Mastandrea, Simone Cristicchi, Ambra Angiolini, Roy Paci, Francesco Montanari, Daniele Vicari, Emma Dante, insomma sono veramente tante le voci che arriveranno sul palco del Teatro India per questa serata importante a ingresso libero. Ciao Simone. Ciao. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.